Capitolo 17. Una lettera da Davy. Nevica, ragazze, annunciò Phil entrando una sera di novembre, e ci sono le più deliziose stelline crocette dovunque nel giardino. Non mi sono mai resa conto prima d'ora di quanto siano graziosi i fiocchi di neve. Uno si accorge di queste cose solo se fa una vita semplice. Che Dio vi benedica tutte quante per avermi dato modo di viverla. È fantastico preoccuparsi perché è salito il prezzo del burro. È salito? Domandò Stella, che teneva i conti di casa. Sì, ed eccovi il burro. Sto diventando esperta di mercato. È ancora più divertente che flirtare. Tutto aumenta in maniera scandalosa, sospirò Stella. Non preoccuparti, rendi grazie a Dio per la salute che ti ha dato e pensa che puoi ancora salvarti, sentenziò zia Giamsina. E ridi più che puoi, aggiunse Anna. Sulle risate non si pagano tasse, ed è un bene, perché ora stiamo ridendo tutte quante. E adesso voglio leggere la lettera di Davy. La sua ortografia è migliorata sensibilmente dall'anno passato, sebbene gli apostrofi non siano il suo forte, e possiede certo il dono di saper scrivere in modo interessante. Ascoltate e ridete prima che sia l'ora della passeggiata serale. Cara Anna, segue la lettera di Davy. Ti scrivo per dirti che stiamo tutti bene e così speriamo che sia per voi. Oggi c'è stata una spolveratina di neve e Marilla dice che la vecchia signora sbatte in cielo i suoi materassi di piume. Questa vecchia signora del cielo sarebbe la moglie di Dio, Anna? Voglio saperlo. La signora Linda è stata male, sul serio, ma adesso sta di nuovo bene. È caduta dalle scale della cantina la settimana scorsa. Quando è caduta si è tenuta alla scansia con tutti i secchi del latte e i tegami, e così si è trascinata dietro tutto facendo un fantastico fracasso. Marilla lì per lì ha pensato che fosse il terremoto. Uno dei tegami si è tutto ammaccato e la signora Linde si è ammaccata le costole. Il dottore è venuto e le ha dato la medicina da mettere sulle costole e lei non l'ha capito e se l'è messa dentro tutta. Il dottore ha detto che è stato un miracolo che non l'abbia uccisa, ma non l'ha uccisa e ha curato le sue costole e la signora Linde ha detto che i dottori non capiscono molto. Però non siamo riusciti a sistemare il tegame e Marilla l'ha buttato via. Il giorno del ringraziamento è stato ieri l'altro. Non c'era scuola e abbiamo avuto un pranzo magnifico. Abbiamo mangiato mincepie e tacchino arrosto e plum cake e bomboloni e formaggio e marmellata e torta di cioccolato. Marilla ha detto che sarei morto, ma non sono morto. Dopo pranzo, Dora ha avuto un mal d'orecchio, solo che non era nelle orecchie ma nello stomaco. Io non ho avuto mal d'orecchio in nessun posto. Il nostro nuovo maestro è un uomo. Fa cose per scherzo. La settimana scorsa ha fatto fare a tutti noi ragazzi di terza un tema sul tipo di moglie che vorremmo avere e alle ragazze sul genere di marito. Lui ha riso tanto da restarci secco quando li ha letti. Questo era il mio. Ho pensato che ti avrebbe fatto piacere leggerlo. Eccolo. Il tipo di moglie che vorrei avere. Lei dovrebbe avere buone maniere e cucinarmi i pasti a tempo e fare tutto quello che le dico ed essere sempre educata con me. Dovrebbe avere 15 anni, dovrebbe essere gentile con i poveri e tenere pulita la casa e stare buona e andare regolarmente in chiesa. Deve essere molto bella e avere i ricci. Se avrò una moglie proprio come la voglio io, sarò un marito terribilmente buono con lei. Io ritengo che una moglie debba essere terribilmente buona con suo marito. Alcune povere donne non hanno marito. Sono stato al funerale della moglie del signor Isaac Wrights a White Sands la settimana scorsa. Il marito del cadavere era molto triste. La signora Linde dice che il nonno della signora Wrights ha rubato una pecora, ma Marilla dice che non si deve parlare male dei morti. Perché non si deve, Anna? Voglio saperlo. Non è pericoloso, non ti pare? La signora Linde si è molto arrabbiata l'altro giorno perché le ho chiesto se era viva ai tempi di Noè. Non avevo intenzione di ferire i suoi sentimenti, volevo solo saperlo. Lo era, Anna? Voglio saperlo. Il signor Harrison voleva sbarazzarsi del suo cane, così l'ha impiccato, ma lui ha continuato a vivere ed è scappato nel granaio, mentre il signor Harrison gli scavava la fossa, così lui l'ha impiccato un'altra volta e lui è stato morto questa volta. Il signor Harrison ha un uomo nuovo che lavora per lui, è terribilmente goffo. Il signor Harrison dice che è mancino a tutti e due i piedi. Lo sguattero del signor Barry è pigro. Il signor Barry dice che lui non è esattamente pigro, solo che è più facile pregare per ottenere le cose che lavorare per averle. Il maiale superpremiato della signora Andrews, di cui lei parlava sempre, è morto di convulsioni. La signora Linde dice che è una giusta punizione per il suo orgoglio. Miles T. Boulter è stato malato. Il dottore gli ha dato una medicina, il sapore era orribile. Io mi sono offerto di prenderla io per un quartino di dollaro, ma i Boulter sono così sciocchi. Miles T. dice che avrebbe potuto benissimo prenderla lui e conservare il denaro. Ho domandato alla signora Boulter come si fa ad andare in giro ad accalappiare un uomo, ma lei si è seccata da morire e ha detto che lei non ha mai accalappiato un uomo. Lavis sta per ridipingere un'altra volta il salone. Erano stufi di vederlo azzurro. Il nuovo pastore è venuto ieri a prendere il tè. Ha mangiato 3 fette di crostata. Se lo facevo io, la signora Linde dicevo che era un maialino. E poi mangiava in fretta e si prendeva delle fette grosse che Marilla mi ripete sempre di non farlo, perché i pastori possono fare quel che i ragazzi non possono fare? Voglio saperlo. Non ho più nessuna notizia. Qui ci sono 6 baci. Dora ne manda uno, ecco i suoi. Il tuo affezionato amico Davy. Postscriptum. Anna, chi era il papà del diavolo? Voglio saperlo. Capitolo 18. La signora Josephine ricorda Anna bambina. Quando giunsero le feste di Natale, le ragazze scapparono nelle rispettive case, ma zia Jamesina scelse di rimanere dov'era. Non posso andare in nessuno dei posti in cui mi hanno invitata con questi 3 gatti, disse, e non ho alcuna intenzione di lasciare le 3 povere creaturine sole per 3 settimane. Se avessimo qualche vicino di casa decente che si prendesse l'incarico di dargli da mangiare mentre non ci siamo, potrei farlo, ma qui ci sono solo miliardari e così resterò qui e terrò Patty's Place al caldo per voi. Anna tornò a casa con l'usuale gioioso senso di attesa, che non venne però del tutto colmato. Trovò Avon Lee nella morsa di un prematuro inverno freddo e tempestoso, come non si era visto mai, nemmeno a memoria dei più vecchi abitanti. Green Gables era letteralmente sommersa da interminabili bufere. Quasi ogni giorno di questa sfortunata vacanza si scatenava la tempesta e persino nelle belle giornate la neve si ammucchiava senza sosta. Non c'era il tempo di aprire un varco che di nuovo si riempiva. Era quasi impossibile mettere il naso fuori di casa. Lavis tentò per ben 3 sere di dare un ricevimento in onore degli studenti universitari, ma ogni volta la tempesta fu così fitta e violenta che nessuno poté andarci. Presi dallo sconforto, i soci rinunciarono a ogni ulteriore tentativo. Nonostante il proprio attaccamento a Green Gables, Anna non poté impedirsi di pensare con vivo desiderio a Patty's Place, al suo delizioso caminetto, agli allegri occhi di zia Jamesina, ai 3 gatti, al felice chiacchierio delle ragazze e alle piacevoli sere del venerdì quando i ragazzi andavano da loro a parlare di cose importanti e di cose frivole. Anna era sola. Per tutto il tempo delle vacanze Diana rimase imprigionata a casa, vittima di un brutto attacco di bronchite. Così non poteva recarsi a Green Gables e solo raramente Anna poteva raggiungerla a Orchard Slope, poiché il vecchio sentiero attraverso il bosco stregato era impraticabile per la neve e la lunga via attraverso il lago delle acque scintillanti lo era quasi altrettanto. Ruby Gillis dormiva quieta nella sua tomba, incappucciata di bianco, e Jane Andrews insegnava in una scuola nelle praterie del West. Gilbert, per la verità, le era sempre fedele e si avventurava fino a Green Gables ogni volta che gli era possibile, ma le visite di Gilbert non erano più quelle di una volta. Anna quasi le temeva. Era molto sconcertante alzare lo sguardo nel mezzo di un improvviso silenzio e scoprire gli occhi nocciola di Gilbert fissi su di lei con un'espressione inequivocabile che sorgeva dal profondo. Ed era ancora più sconcertante scoprire una se stessa paonazza e imbarazzata sotto quello sguardo, proprio come se, proprio come se, bene, era davvero imbarazzante. Anna avrebbe voluto trovarsi a Patty's Place, dove c'era sempre qualcuno intorno a risolvere le situazioni delicate. Ma a Green Gables Marilla si trasferiva nell'appartamento della signora Lind appena Gilbert compariva e insisteva per portare con sé i gemelli. Sul significato del suo comportamento non c'erano dubbi e Anna ne era furiosa. David, al canto suo, era pienamente felice. Si divertiva un mondo ad alzarsi la mattina e a spalar via la neve dal sentiero fino al pozzo e al pollaio. Si rimpinzava delle prelibatezze natalizie che Marilla e la signora Linde gareggiavano nel preparare per Anna e leggeva in un libro preso a prestito alla biblioteca scolastica l'appassionante storia di un meraviglioso eroe che sembrava dotato della straordinaria facoltà di mettersi sempre nei guai, dai quali, tuttavia, usciva regolarmente grazie a un terremoto o a un'eruzione vulcanica che gli consentivano di sottrarsi alle sue tribolazioni forte e indenne e di guadagnarsi una fortuna. Il racconto si chiudeva in modo trionfale. Ti assicuro che è una storia splendida, Anna, proclamò estatico. La leggo assai più volentieri della Bibbia. Veramente? Sorrise Anna. Davy la sbirciò, incuriosito. Non mi sembri scandalizzata, nemmeno un po', Anna. La signora Linde lo era in maniera incredibile quando gliel'ho detto. No, non sono scandalizzata, Davy. Credo che sia naturale che un ragazzino di 9 anni preferisca leggere un racconto d'avventure anziché la Bibbia, ma quando sarai più grande spero che capirai che grande e meraviglioso libro è la Bibbia. Oh, sì, alcune parti non sono male, concesse Davy. Per esempio, la storia di Giuseppe è magnifica. Solo che se io fossi stato Giuseppe non avrei perdonato i miei fratelli, no signore, gli avrei tagliato la testa a tutti quanti. Quando ho detto questo alla signora Linde, lei è diventata furiosa, ha chiuso la Bibbia e ha detto che non mi avrebbe mai più letto niente se io avessi continuato a parlare così. Perciò adesso, quando lei legge la Bibbia la domenica pomeriggio, io non fiato. Semplicemente penso e poi riferisco i miei pensieri a Malty Boulter il giorno dopo a scuola. Ho raccontato a Malty la storia del profeta Eliseo e degli orsi e l'ho talmente spaventato che non ha più preso in giro il signor Harrison per la sua testa pelata. Ci sono orsi nell'isola, Anna? Voglio saperlo. Non più ai giorni nostri, rispose Anna con aria assente, mentre il vento soffiava contro la finestra uno scudo di neve. Oh, cielo, non la smetterà mai di nevicare. Lo sa solo Dio, si rallegrò Davy, preparandosi a riesumare le sue affascinanti letture. Anna, questa volta si scandalizzò. Davy, lo rimproverò. La signora Linde lo dice, protestò Davy. Una sera la settimana scorsa Marilla ha detto: chissà se Ludovic Speed e Theodora Dix si sposeranno mai. E la signora Linde ha risposto: Dio solo lo sa, proprio come ho fatto io. Allora non ha fatto una cosa giusta, ribatté Anna, scegliendo velocemente a quale corno del dilemma fosse preferibile appigliarsi. Non è giusto per nessuno nominare il suo nome invano o citarlo a sproposito. Non farlo mai più. Nemmeno se lo faccio in tono alto e solenne come il pastore? Domandò Davy speranzoso. Nemmeno. Ok, obbedisco. Ludovic Speed e Theodora Dix vivono a Middle Grafton e la signora Rachel ha detto che lui le fa la corte da 100 anni. Non sono un po' troppo vecchi per sposarsi, Anna? Voglio saperlo. Spero che Gilbert non faccia la corte altrettanto a lungo a te. Quando vi sposerete, Anna? La signora Linde dice che è cosa fatta. La signora Linde esordì Anna impetuosamente, poi si fermò. Una vecchia pettegola, completò calmo Davy. È così che tutti la chiamano. Ma è cosa fatta, Anna? Voglio saperlo. Sei proprio uno sciocchino, Davy, sbottò Anna uscendo altezzosamente dalla stanza. La cucina era deserta e lei sedette accanto alla finestra nel rapido crepuscolo invernale. Il sole era tramontato ed era calato il vento. Una pallida luna occhieggiava dietro un banco di nubi rossastre a occidente. Il chiarore del cielo si dissolveva lentamente, ma la striscia dorata a occidente si andava facendo più luminosa e più netta, come se tutti gli sparsi barlumi di luce si fossero concentrati a formarne uno solo, chiaro e splendente. Le colline lontane, bordate di abeti simili a preti dalla tonaca nera, si stagliavano scure su quello sfondo. Si sentiva sola, Ed era triste perché si chiedeva se le sarebbe stato possibile tornare a Redmond l'anno prossimo. Non le sembrava probabile. L'unica borsa di studio disponibile per i sophomore era risibile. Non voleva intaccare il denaro di Marilla e non le sembrava possibile riuscire a guadagnare il denaro necessario durante l'estate. L'anno prossimo dovrò rinunciare, rifletteva tristemente, e pensare a insegnare di nuovo in una scuola del distretto fino a quando riuscirò a guadagnare abbastanza per riprendere gli studi. Ma nel frattempo tutti i miei compagni di corso si saranno laureati e Patty's Place sarà fuori discussione. Però non devo essere codarda. Devo seguire la mia strada fino in fondo se è necessario. Per strada c'è il signor Harrison che sta venendo qui, annunciò Davy correndo fuori. Spero che ci porti la posta. Non ne arriva da 3 giorni. Voglio vedere che fanno quei noiosi grit. Io sono un conservatore, Anna, e ti consiglio di tener d'occhio i grit. Il signor Harrison portò la posta e le festose lettere di Stella, Priscilla e Phil ebbero il potere di consolare Anna. Aveva scritto anche zia Jamesina, dicendo che teneva acceso il focolare, che i gatti stavano tutti bene e che le piante di casa erano rigogliose. Il tempo è stato davvero freddo, diceva, così ho permesso ai gatti di dormire in casa, Rusty e Joseph sul divano del soggiorno e Sarah Cat ai piedi del mio letto. È davvero consolante sentirli fare le fusa quando mi alzo di notte. A pensare alla mia povera figlia in terre lontane, non mi preoccuperei se fosse in un altro posto, ma in India. Mi dicono che laggiù ci sono dei terribili serpenti. Le fusa di Sarah Cat mi distolgono dal pensiero di quei serpenti. Non riesco a capire perché mai la provvidenza li abbia creati. Talvolta penso che non sia stato il Signore. Sono incline a pensare che il vecchio Lucifero ci abbia messo lo zampino. Anna lasciò per ultimo un piccolo avviso scritto a macchina, pensando fosse poco importante, ma quando lo lesse si irrigidì e gli occhi le si colmarono di lacrime. Che cos'è successo, Anna? Si informò sollecita Marilla. La signorina Josephine Barry è morta, disse piano Anna. Così se n'è andata, mormorò Marilla. Era malata da più di un anno e i Barry si aspettavano che morisse da un momento all'altro. È meglio che ora riposi in pace, perché ha tanto sofferto, Anna. È sempre stata gentile con te. Oh, è stata gentile fino all'ultimo, Marilla. La lettera è del suo avvocato. Oh, mi ha lasciato $1.000 nel testamento. Cribbio, non è un bel mucchio di quattrini, esclamò Davy. È la donna che tu e Diana avete investito quando siete saltate nel letto degli ospiti, non è vero? Diana mi ha raccontato tutta la storia, è per quello che ti ha lasciato tanto? Silenzio, Davy, lo ammonì dolcemente Anna. Sgattaiolò con il cuore colmo di lacrime nel suo rifugio sotto il portico, lasciando Marilla e la signora Linde a commentare la notizia a loro agio. Pensate che ora Anna non si sposerà più? Si informò Davy ansioso. Quando Borca Sloane si è sposata l'altra estate, ha detto che se avesse avuto abbastanza denaro da cavarsela da sola, non si sarebbe mai impegolata con un uomo, ma che stare con un vedovo con 8 figli è sempre meglio che vivere con una cognata. Davy Keith, tieni a freno la lingua, lo ammonì severamente la signora Rachel. Il modo in cui parli è scandaloso per un ragazzino di 9 anni. Che diamine?